spinetta delle certezze si frantuma e le sensazioni pesano come campane. Quando anche la più dolce delle parole scivola come merda dalla tua bocca e qualcosa per niente è tutto ciò che hai, è tempo di cucirsi addosso una nuova serie di menzogne o di restare nudi per sempre. Quando le risposte sono giuste, le domande non quadrano. Portare ogni conseguenza sino al suo estremo. Ogni conseguenza sino al suo estremo. Ogni conseguenza sino al suo estremo. Ogni conseguenza sino al suo estremo.